Davvero questo titolo rispecchia tutto quello che siete e che siete diventati, il titolo della vostra collezione? Ma credo che sia semplice, lo dico spesso, il risultato, anche il risultato di un'amicizia come la nostra, però dietro la semplicità c'è sempre una grande complessità, nel senso ci sono tantissime esperienze, tantissime vite diverse, almeno le nostre sei sono così differenti nei gusti, nei modi di viverle anche. Però il risultato è veramente semplice, nel senso che quando a parlare la musica fra di noi c'è tutto, è tutto molto più semplice e aiuta tanto. Lele, la musica rende tutto molto più semplice. Sì, perché è un linguaggio che non ha bisogno di risposte o di artifici intorno, insomma. Per noi è un mezzo di comunicazione che nel momento in cui con le parole non riusciamo ad arrivare ad un obiettivo, lo facciamo con la musica, ed è quello che in qualche modo ci lega per andare avanti, per vivere le giornate, insomma, nel modo più sereno possibile.